Linee d'ombra di Matteo Caccia. Scavando nei miei ricordi ho ricostruito questa vicenda di questo piccolo gruppo di carabinieri sfuggiti alla deportazione. Suggerì ai carabinieri di tornare indietro, scendere fino al piano terra e risalire dalla porta di casa sua, che era piuttosto nascosta, dentro ad uno degli archi di Porta del Popolo. Storie di una fuga rocambolesca e di un martire delle fosse ardeatine in una puntata che si intitola Roma 24 marzo 44. Qui ci sono i nomi, non è stato facile. Questo è un rapporto sulla località scelta e qui una copia della pianta del posto stesso che abbiamo ritenuto adatto allo scopo. Kapler, lei non si rende conto. Dobrik si rifiuta. Hauser si rifiuta. In altre parole, si lavano le mani di tutta la faccenda. Abbiamo 8 ore soltanto. A che serve la sua lista? Chi li fucila? Non si preoccupi, generale. Troverà qualcuno disposto a farlo. Sì, lei. Lo farà lei. Se è un ordine ufficiale, generale, allora metterò i miei uomini a sua disposizione per questa operazione. No, Kapler. Quale comandante del servizio di sicurezza di Roma? È suo dovere dare l'esempio ai suoi uomini. Lei e tutti i suoi ufficiali dovrete prendere parte personalmente a questa operazione. Questo è il mio ordine ufficiale. E naturalmente lo avrà per iscritto. Linea d'ombra continua a raccontarvi le storie, lo facciamo remotamente, cerchiamo appunto di frequentare l'edificio della radio il meno possibile, come dicono le disposizioni ministeriali, possiamo farlo e quindi magari sentirete qualche rumore di casa. C'è il mio vicino che suona il piano, fa il cantante nella vita e quindi ha bisogno di continuare a tenere la voce in forma, magari qualche scricchiolio della sedia dove sono seduto. Non è propriamente uno studio radiofonico, ma cerchiamo di continuare a raccontarvi le storie a prescindere. Oggi è il 24 di marzo e non è una data qualunque, è una data particolare non solo per il momento che stiamo vivendo, che sicuramente passerà alla storia, ma perché alla storia il 24 marzo del 1944 è passato un avvenimento che è conosciuto come la strage delle fosse ardeatine. Le fosse ardeatine sono un luogo, sono delle fosse dove sono state ritrovate i cadaveri di 335 persone, 335 italiani che sono stati di fatto uccisi. È stata un'esecuzione di massa da parte delle SS che si trovavano a Roma in quegli anni. Di fatto è stata una rappresaglia. Il giorno prima dei partigiani avevano ucciso con un attentato 33 tedeschi, ahimè anche due civili italiani, 33 militari tedeschi, e come rappresaglia il giorno dopo le SS decisero di uccidere 10 italiani per ogni soldato tedesco ucciso. Ne uccisero 335, per lo più erano persone che si trovavano prigioniere nelle loro carceri. Una di queste era le carceri di Via Tasso. Vi racconteremo una storia tra poco, una storia veramente toccante che abbiamo scoperto grazie all'archivio terroristico di Pieve Santo Stefano, che appunto arriva da là, è una delle pochissime testimonianze che ci sono arrivate di quei giorni, delle persone che erano rinchiuse in quella prigione. La persona nella fattispecie è un ragazzo di 18 anni che riesce a scrivere delle lettere infilandole nel colletto della camicia che può permettersi di mandare a lavare alla madre. Questi testi sono raccolti e sono tenuti insieme grazie all'archivio terroristico nazionale di Vive Santo Stefano. Lui si chiamava Orlando Orlandi Posti e tra poco vi leggeremo alcune delle sue lettere. La prima storia con cui apriamo invece è una storia meno truculenta, anche se arriva da quel periodo, arriva proprio dai disordini che c'erano a Roma in quegli anni, in quei giorni nella fattispecie, proprio nei giorni del 44. È una piccola avventura, è una piccola riscoperta storica. Il protagonista di questa storia si chiama Giannetto, era un ragazzino a quell'età, ha sempre vissuto davanti a Piazza del Popolo. E in quei giorni si ricorda di come un amico che abitava in un appartamento incastrato nell'arco di Piazza del Popolo è riuscito a salvare lui e i genitori, era riuscito a salvare dei carabinieri che dovevano essere deportati dai tedeschi in Germania. Lui di fatto ricostruisce quell'avvenimento storico e lo rivive nonostante l'età avanzata, perché Giannetto, se non sbaglio, ha più di 80 anni e riesce appunto a salire in quell'appartamento, infilarsi nell'arco e spuntare dove sono spuntati i carabinieri all'epoca, da cui sono riusciti a scappare. La sua storia è molto dettagliata, quindi nella puntata che si intitola Roma 24 marzo del 44 mettetevi comodi, stiamo per cominciare. Benvenuti a Linee d'Ombra. Mi chiamo Giannetto e sono nato nel 1933 in un palazzo al quinto piano di Piazzale Flaminio a Roma. Di fronte alle finestre di casa mia c'era la bellissima Porta del Popolo ed esattamente dentro la Porta del Popolo c'era un unico appartamento dentro cui abitavano gli amici di famiglia Arnaldo e Clelia. Il loro appartamento si sviluppava su un unico piano in corrispondenza delle quattro finestre visibili sulla facciata. Per entrare dentro casa loro c'era una minuscola porticina in uno degli archi sul piano della strada. Si saliva una scala piuttosto buia fino ad arrivare al loro appartamento. Dalla scala, proprio sotto il pavimento dei nostri amici, si poteva accedere ad un unico lungo corridoio basso e cieco che attraversava tutta la porta. Questo corridoio aveva un'unica finestra che affacciava sui tetti della chiesa di Santa Maria del Popolo. Con queste persone avevamo un rapporto affettuoso, ci salutavamo dalla finestra. Io sono stato molte volte a casa loro. Si saliva da una porta d'ingresso che era dentro l'arco di sinistra. Al piano di sopra c'era una terrazza il cui pavimento è 3 metri più basso dell'affaccio. Da quella terrazza non si vede da nessuna parte, non ci si può affacciare né a Piazza del Flaminio né su Piazza del Popolo. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43 in Italia e in particolare a Roma, furono giorni di estrema complessità. La fuga di Pietro Badoglio, di Vittorio Emanuele III e di suo figlio Umberto il giorno dopo generarono ulteriore confusione presso tutte le forze armate. Alcuni rimasero fedeli al re, altri si diedero alla macchia, dando vita ai primi gruppi partigiani. Altri ancora scelsero di rimanere fedeli al vecchio alleato tedesco e al fascismo. Nelle settimane immediatamente successive si incrementarono attivamente la ricerca e la deportazione degli ebrei e si sprecarono le rappresaglie nei confronti dei soldati italiani, tanto che circa 815.000 vennero catturati e destinati a diversi campi di prigionia. I tedeschi ottennero dal ministro della guerra Graziani la neutralizzazione dei carabinieri in servizio a Roma, ordinandone il disarmo e di fatto permettendone la deportazione in Germania. L'arresto dei carabinieri avvenne nei primi giorni di ottobre e il giorno 8 partì il treno che li portava in Germania. In quei primi giorni di ottobre i tedeschi si presentarono all'ingresso della caserma Giacomo Acqua, che con la sua garitta di guardia si apre proprio verso Piazza del Popolo. Alcuni carabinieri tentarono di fuggire salendo sul tetto e sulla terrazza che confina con il lato della porta. In qualche modo si arrampicarono fino alla finestra che dava luce alle scale della casa abitata proprio dagli amici Arnaldo e Clelia, ma si trovarono bloccati da un'inferriata murata che non si poteva aprire. Arnaldo si accorse di quanto stava accadendo e suggerì ai carabinieri di tornare indietro, scendere fino al piano terra e risalire dalla porta di casa sua, che era piuttosto nascosta, dentro ad uno degli archi di Porta del Popolo. «Vi lascio la porta socchiusa, poi, una volta saliti, vedremo il da farsi», disse loro. As Una volta entrati, Arnaldo li introdusse in quello spazio fra il pavimento della sua abitazione e la curvatura degli archi sottostanti, facendoli procedere fino al lato sinistro della porta, dove si apriva la stretta finestra che permetteva di accedere ai tetti della chiesa di Santa Maria del Popolo. Una volta sui tetti, i carabinieri, che erano sfuggiti all'arresto, potevano allontanarsi disperdendosi attraverso il pincio e la retrostante villa borghese. Dopo 77 anni da quell'evento, spinto dalla curiosità, io ho voluto ripercorrere la fuga di quei carabinieri. Ho quindi ritrovato la finestra dal lato della porta verso la caserma, quella che aveva ostacolato la fuga dei carabinieri. Ho ritrovato il posto della porta della casa di Arnaldo, il vecchio posto che nel frattempo era stata spostata dall'interno dell'arco ad appena fuori, verso Piazza del Popolo. Mi mancavano però le tracce dell'uscita dall'altra parte, sui tetti della chiesa. Le finestre visibili sono troppo alte per immaginare che i fuggitivi si potessero essere calati da 5 o 6 metri di altezza. E neppure sulla parete della porta erano visibili segni di successive chiusure. Insomma, mi mancava un ultimo ma fondamentale passaggio. Io ho ascoltato una conferenza sulle mura aureliane. Questa professoressa ha parlato di vicende che riguardavano queste mura che sono rimaste. E allora mi è venuto in mente che sulle mura io avevo una storia che sapevo soltanto io, perlomeno in questi tempi avevo soltanto ricordato io. L'aiuto mi è arrivato grazie all'amico padre Amedeo, ex parroco, mio quasi coetaneo di Santa Maria del Popolo, a cui avevo raccontato la storia. Lui, senza dirmi niente, si arrampicò sui ponteggi che attualmente avvolgono la chiesa in funzione del restauro della sua facciata esterna e acrobaticamente riuscì ad arrivare al punto dove le mura si appoggiano alla porta e dove, quasi invisibile, c'è tuttora un passaggio di circa 80 cm per un metro che corrisponde a quanto sapevo, ma non ero riuscito a vederlo sino a quel momento. Inutile dire che il giorno successivo, accompagnato dall'amico, nonostante i miei anni, senza dire nulla a mia moglie che si sarebbe preoccupata, ho ripetuto l'acrobatico percorso scavalcando ponteggi e scale a pioli per fare l'immancabile, fondamentale fotografia alla porticina, ultimo dettaglio a conferma dei miei ricordi. Bad day, looking far away, home, looking for the grace came. Gets in his car and drives away, far from all things that we are. Puts on a smile and breathes it in and breathes it out. He says bye, bye, bye to all of us. Always says bye, bye, bye to all of us. Questa è una puntata particolare perché appunto racconta di un periodo particolare di questo paese, che era il periodo della guerra, un periodo devo dire che tutti in questo momento stanno un pochettino paragonando a quello che stiamo vivendo adesso, anche se onestamente mi sembra molto diverso per il semplice fatto che noi non dobbiamo scappare dalle bombe o non dobbiamo partire a militare, ma dobbiamo semplicemente stare a casa e goderci il più possibile questo tempo e rimanere qui. Però questa puntata racconta proprio di quel periodo là, di un periodo in cui la guerra di fatto era in casa nostra e soprattutto Roma era una città molto molto particolare e lo abbiamo scoperto decisamente anche grazie al racconto di Giannetto. Pronto, buongiorno Giannetto. Buongiorno. Come stai? Tutto bene? Bene, bene. Com'è a Roma la situazione in questo momento? come nel resto d'Italia, siamo chiusi dentro, intorno a noi c'è il vuoto e speriamo che passi presto. Gianetto, senti, proviamo a tornare allora con la memoria a quell'epoca, sì, che ci hai raccontato. Sì. Com'era? Tu quanti anni avevi nel 44? L'evento di cui sto parlando, sì, parleremo, sì, è del 43. Del 43, perdonami, certo. E io sono del 33, quindi dieci avevo anni. Allora 10 anni. E quindi hai ricordi di Roma in quel periodo? Assolutamente sì, anche perché il personaggio che adesso citerò di questa vicenda era un amico di famiglia e ci frequentavamo quotidianamente, anche all'epoca se si girava poco, c'era la guerra, eccetera, e quindi questi contatti con i dirimpettai e i vicini del quartiere erano molto frequenti. A me, devo dire, della tua storia, Giannetto, ha stupito moltissimo il luogo, il posto, perché per chi non la conosce, Piazza del Popolo è una delle più belle piazze di Roma ed è una delle più belle piazze d'Italia, di questo paese senza dubbio, e c'è questo arco sotto il quale si passa per accedere alla piazza, alla Piazzale Flaminio, e lì sotto c'era questo appartamento, giusto Giannetto? Tutto nasce, questo mio ricordo lontano, nasce da una conferenza a cui ho assistito, tenuta dalla professoressa Lucina Caravaggi sulle mura aureliane. Ok. Ora, la Porta del Popolo fa parte del sistema, è più recente, ma costituisce un elemento di continuità delle mura che scendono dal Muro Torto e vanno verso il Tevere. E avendo ascoltato questa conferenza mi è tornato alla mente che sapevo in prima persona, per averla saputa proprio al momento in cui succedeva, questa vicenda che riguardava la deportazione dei carabinieri quando ci fu l'8 settembre e i tedeschi occuparono l'Italia, Roma, e chiesero a Graziani di liberarsi di questa forza armata che era fondamentalmente fedele al re, mm-hmm, che in quel momento era andato a finire a Taranto, adesso non mi ricordo più bene dove, ma insomma era nella parte d'Italia liberata già dagli alleati. Certo. Senti, Giannetto, tu cosa ti ricordi di quello che ti ha raccontato? Quanti carabinieri sono riusciti a salvare? Questo non lo so esattamente il numero, saranno stati una decina o poco più. Ho chiesto all'ufficio storico dei carabinieri di darmi queste, se avessero ricordi di questa vicenda e se potessero darmi qualche conferma storica. Hanno promesso di fare delle ricerche, ma ovviamente la cosa prende tempo, non è immediata. Senti, quanto è grande questo appartamento, o quanto era grande questo appartamento nell'arco, nelle mura? La Porta del Popolo la conosciamo tutti in qualche maniera, è grande, a Piazzale Flaminio sono tre archi, uno centrale molto grosso e altri due più piccoli a fianco, e la porta è in altezza, può essere divisa in tre piani. Okay. Uno che non è molto agibile perché ha il pavimento a curve, perché passa proprio sopra la struttura degli archi. Certo. Ed è quello che è stato attraversato dai carabinieri. Al piano di sopra ci sono, verso la facciata, verso via Flaminia, quattro finestre, ed era l'appartamento abitato da Arnaldo Genoino e sua moglie Clelia. Sopra ancora c'è una terrazza che non c'entra con la nostra storia, ma è solo per completare come è costituita la struttura, mm-hmm, il cui pavimento è 3 metri sotto i merli della porta. Okay. Quindi, essendo una specie di, come si dice, di cortile abbassato, insomma, questa terrazza non ha affacci né su Piazza del Popolo né su via Flaminia. Senti, invece, Giannetto, tu quando è che hai effettuato questa, diciamo, perlustrazione? La casa di Genoino l'ho frequentata molto quotidianamente, quasi all'epoca, mm-hmm, soprattutto nell'immediato dopoguerra per vari anni. Poi l'episodio, la storia è passata nel dimenticatoio ed è tornata alla mia memoria avendo assistito a questa conferenza sulle mura aureliane, di cui sono stati raccontati altri aneddoti, e io avevo questa mia storia e mi è tornata in mente. Ho voluto, essendo passato tanto tempo, verificare che la memoria fosse corretta, ritrovando sia la finestra e la scala da cui i carabinieri erano riusciti a entrare in questa struttura, e sia soprattutto il passaggio in uscita verso dietro Santa Maria del Popolo, verso Villa Borghese, che è stata la via di fuga di questi. Ma dico, quanti anni fa lo hai fatto questo, diciamo, questo Omar Khan? Questa cosa è avvenuta 2 settimane fa. Ma quindi, se tu sei del 33, hai 87 anni e di fatto hai fatto questa sorta di percorso di guerra a questa età. In effetti così è stato. Sulla parola percorso di guerra è che attualmente ci sono delle impalcature per il restauro della facciata e dei lati di Santa Maria del Popolo, della chiesa. Mm-hmm. E quindi io mi sono affacciato da quella parte e non riuscivo a vedere questo passaggio, questa porticina d'uscita della porta. E ne ho parlato però col mio amico, il parroco, l'ex parroco di Santa Maria del Popolo, Padre Amedeo. Il giorno dopo Padre Amedeo mi ha telefonato e mi ha detto: ho trovato la porticina. E allora sono tornato da lui, mi sono arrampicato dentro le impalcature e in effetti, nascoste da queste, c'era la porticina che io sapevo esserci. Certo. E già che c'eri hai detto: facciamola, siamo qua. L'ultima cosa, poi ti saluto, Giannetto, l'hai confessato a tua moglie, lei lo sa? Come no, certo che sì. Ok, Giannetto, ti ringrazio molto, ti ringrazio molto per la storia che ci hai mandato e per la chiacchierata. State al sicuro e passerà il periodo. Grazie mille. Grazie a te. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. In this day and age, it's so easy to stress, 'cause people are strange and you can never second guess. Roma, 24 marzo 44, si intitola la puntata di oggi, e dopo la storia e la chiacchiera con Giannetto noi torniamo a raccontare tra pochissimo, dopo le borse in diretta. Linee d'ombra. Orlando Orlandi Posti era un giovane studente delle scuole magistrali di quasi 18 anni. Abitava al quartiere di Montesacro, a Roma. Il 10 settembre del 43, 2 giorni dopo l'armistizio, diventò partigiano, presentandosi spontaneamente a combattere contro i tedeschi sull'Aniene. Nel primo pomeriggio del 3 di febbraio del 44, dopo essere passato a salutare sua madre, andò poi nel bar di proprietà della famiglia della sua innamorata. Là venne arrestato, venne tradotto in carcere in via Tasso, era il febbraio del 44, e lì ci rimase detenuto proprio fino al 24 di marzo, giorno in cui venne trucidato dalle SS alle fosse Ardeatine insieme ad altre 334 persone. Durante i mesi di detenzione scrisse su piccoli pezzi di carta con la mina di una matita un diario che fece avere a sua madre, nascondendo nei colletti delle camicie da lavare questi pizzini di carta. Noi questa storia l'abbiamo scoperta grazie all'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, che ancora tiene quei pezzettini di carta. giornata, e sono, credo, tra le testimonianze che loro riportano e che hanno, tra probabilmente le cose più commoventi che si possano vedere, scritte a mano da un giovane ragazzo in prigionia che non sa ancora che andrà a morire. In questa puntata, che si intitola Roma 24 marzo 44, la seconda storia è tratta dai suoi diari. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Oggi alle 14.30 in piazza Sempione, al negozio B, mi hanno arrestato. Un agente tedesco e una spia italiana mi hanno messo in una macchina lì vicina. Nessuna spiegazione. Stavamo aspettando chissà chi. Arriva mia mamma piangendo, non mi fanno parlare e la scacciano via. Nel frattempo vedo Lella passare ad una dovuta distanza, spaventata, al fine accompagnata da Luana, che si avviano titubanti verso la macchina dove ero custodito. Esse passano ad una dovuta distanza, giunte all'altezza del mio posto, Lella si volge verso di me con uno sguardo incoraggiante e mi fa gesto con la sua mano di non abbattermi moralmente. Con una mano mi sono coperto gli occhi per poter meglio imprimere nella mia mente quell'immagine, a me tanto cara, che è il conforto di queste dure giornate. Quasi subito dopo questo avvenimento partimmo, attraversando il quartiere in cui ho vissuto le ore più belle e quelle più brutte di tutta la mia fanciullezza. Ho volto il mio sguardo e ho cercato di raccogliere più possibile quadri che me lo ricordassero. Strada facendo, incominciai a pensare con più preoccupazione alla mia situazione e mi domandai quale fosse la direzione, il luogo in cui fossi condotto. Visto che non si fermavano né alla caserma di Castro Pretorio né a Regina Celi, pensai che mi avrebbero portato all'ambasciata per poi processarmi e immediatamente fucilarmi. Rimasi insensibile a questa possibilità, solo il mio pensiero corse alla mia mammina, a cui ero rimasto solo io, per la quale essa si sacrificava giornalmente per poter fare le veci del mio povero papà, per potermi dare una posizione decente nella vita sociale. Poi pensai alla mia fidanzata, alla cara Lella, alla bambina a cui vorrei dedicare tutto il mio avvenire. Pensai con tristezza ai miei progetti, che svanivano nel nulla. Oggi, 1 marzo, la fame è arrivata a un punto tale da farmi venire l'affanno. Mi hanno dato un mestolo di acqua con due pezzi di verdura, due pagnottine piccolissime, acide, da far venire i dolori di stomaco. Mi ero dimenticato. La domenica, pasta bollita nell'acqua e tutto senza nessun condimento, accompagnato da due dita di carne e metà pagnottine in più. Ora in questa camera siamo in sei. Manca l'aria, non si respira, più la fame aumenta, insomma, oggi mi sembra di impazzire, non riesco nemmeno a fermare il pensiero in nessuna cosa perché i miei nervi non resistono più. Riesco solo ad intravedere, lontano, lontano, la mia cara Lella, e il suo sguardo riesce solo a rialzarmi, ma sono debole, sono abbattuto moralmente. Mi sforzo di sognare tutte cose belle, come fanno tanti altri della mia età, ma non so spiegarmi perché riesco raramente. Mi piacerebbe sognare, come sognano tanti, divertimenti, gite, cose facili. E qualche volta mi ci sono anche provato a farlo. Ma non appena cominciamo a penetrare attraverso la cortina di sogni, tuttavia un pensiero più serio mi riporta a quello che sarà il mio avvenire. Now life devalues day by day. There's friends and neighbors turn away, and there's a change that even with regret cannot be undone. Now frontiers shift like desert sands, while nations wash their bloodied hands of loyalty. Oggi, 14, brutta giornata, ma brutta per me. L'inizio del mio 18° compleanno è stato disastroso. Questa mattina sono stato svegliato per gli urli potenti del maresciallo che monta di guardia in questa settimana. È un essere indescrivibile per la sua malignità e il suo odio che manifesta verso di noi che siamo inermi nei suoi confronti. Dopo 2 ore che sono rimasto sdraiato sullo stecciato fra il dottore e il maresciallo, viene ad aprirci per la pulizia e, trovandoci a letto e in disordine, incomincia ad inveire specie contro di me. Sembra che abbia un'antipatia personale, perché basta una piccola disattenzione nella cella che si scatena verso di me come se io, più piccolo, ne fossi responsabile. Pazienza, passerà. Dunque, dopo quella strillata che è finita con le parole «Oggi non ti darò da mangiare», naturalmente dette in tedesco, la porta si chiude e noi tutti ci mettiamo ad aspettare il benedetto pasto quotidiano, chi parlando di politica, chi raccontando qualche fatto della sua vita. Io questa mattina ho il morale abbastanza basso, mi sono tenuto in disparte e, dato che facendo una passeggiatina attraverso il ristretto spazio mi ero stancato, non certo per il lungo cammino, avrò fatto in tutto 200 metri, ma per l'avanzato stato di esaurimento fisico, mi sono seduto e lì sono rimasto per diverso tempo, e sono rimasto tutto quel tempo con la mente che vagava nel nulla, perché ho avuto paura di essere colto da nostalgia. Solo di tanto in tanto seguivo il ragionamento dei miei amici. Signore Dio, fa che presto finiscano le sofferenze umane che tutto il mondo sta attraversando, fa che tutti tornino alle loro case, fa che il lavoro ritorni in ogni dove e così torni la pace in ogni famiglia e tutto torni allo stato normale. Cara Marcella, quando leggerai questa lettera, che sarà l'ultimo mio contatto con te, io sarò nel mondo dove almeno troverò un po' di pace, se il buon Dio che tutto può lo permette. Dunque, Marcellina mia, quando la leggerai non voglio assolutamente che il tuo caro visino venga rigato dalle lacrime. Solo ti prego di aggiungere alle tue preghiere serali una piccola preghierina per l'anima. Te lo chiedo perché so che questo non ti costerà nessun sacrificio. Ora vengo a giustificare questo mio scritto. Sappi, Marcellina, che ti volevo bene, ma molto bene, e da molto tempo. Solo ho saputo far tacere il mio cuore perché non ero degno, secondo la mia idea, fino a che non avessi avuto aperta la via di un avvenire sicuro per poter raggiungere il mio ideale. Perciò, ora che è impossibile che possa realizzare il mio sogno, ho voluto confidarti il mio segreto. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for me. Music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Quella che abbiamo appena letto sono alcune delle lettere che Orlando Orlandi Posti, un ragazzino di 18 anni, scriveva dal carcere di Via Tasso di Roma, il carcere delle SS, nel 1944. Le scriveva, è davvero incredibile, le scriveva su questi fogliettini di carta che trovava chissà dove e le infilava nei colletti delle camicie, perché per qualche strano motivo le SS tenevano segregate queste persone a 6 in celle minuscole, però permettevano loro di mandare a casa i panni perché per essere lavati. Quindi lui si augurava che la madre, tastando le sue camicie, trovasse questi bigliettini. Così accadde, quindi di fatto c'era una comunicazione tra la madre e questo ragazzo, che oltre a scrivere quello che accadeva in queste giornate all'interno del carcere, scriveva anche alla madre, appunto, e alla sorella. Queste minuscole lettere le trovate, siete interessati, in una pubblicazione di Donzelli che si intitola Roma 44, lettere dal carcere di Via Tasso di un martire delle fosse ardeatine, Orlando Orlandi Posti. Noi l'abbiamo scoperto, come spesso succede con le storie che vi raccontiamo, nell'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano. Ora sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. Ed è arrivato anche il momento che so che molti di voi aspettano, per avere un piccolo squarcio, una piccola visuale all'interno delle nostre case oggi. Le nostre case oggi sono diventate un posto diverso da come lo erano anche solo un mese fa, perché questa emergenza che ci costringe a vivere il più possibile, per chi può permetterselo, ricordiamocelo sempre, il più possibile in casa, sono diventate da una parte una specie di scialuppa di salvataggio, da una parte sono diventate un piccolo nido, da un'altra parte sono diventato un inferno, ma quello, diciamo, dipende un pochettino dai contesti familiari o non familiari in cui ci si trova a vivere. Insomma, le convivenze coatte possono generare dei mostri o possono generare magari dei figli, chi lo sa. Ho letto da qualche parte qualcuno che diceva: speriamo che tra 9 mesi le terapie intensive siano vuote e le sale parto siano piene. Questo potrebbe succedere, ma anche no, vedremo. Insomma, vi stiamo raccontando, questo per dire che vi stiamo raccontando i diari di questi giorni di quarantena, li stiamo raccontando grazie a voi. Vi invitiamo a continuare a mandarceli, lineedombra@radio24.it, per raccontarci come è cambiata la vostra giornata. La prossima storia è la storia di Francesca, che nella vita fa la traduttrice e la sua giornata passa da momenti di lavoro a momenti di sconforto, come può capitare. Mi chiamo Francesca, sono traduttrice di un grosso studio legale di Milano, lavoro da casa da qualche giorno. Giorno 1, sono brava, rispetto i ritmi di prima, solita sveglia, provo la temperatura, solita colazione, mi vesto, ma niente trucco. PC acceso alle 9:05. Giornata lavorativa normale, qualche telefonata perché l'interno dello studio è girato sul cellulare, un paio di email e una tristissima comunicazione da tradurre di un datore di lavoro che mette i dipendenti in ferie perché l'emergenza coronavirus impedisce la prosecuzione dell'attività aziendale. Spengo il PC alle 18. Telefono ai miei nipoti per fare 2 chiacchiere, non l'avevo mai fatto prima. Noi che in famiglia facciamo solo telefonate di servizio. Prima di andare a letto, provo la temperatura e buonanotte. Giorno 2, solita sveglia, provo la temperatura, colazione un po' diversa, niente trucco, faccio partire una lavatrice e rimango in pigiama. Lavoro e a metà mattina, al posto della pausa caffè, stendo il bucato sul balcone. Non lo faccio mai perché non sono quasi mai in casa, per assicurarmi che il vento non faccia danni. Nel pomeriggio, seconda lettera di un datore di lavoro che mette in ferie i dipendenti per via del virus, alle 18 non spengo il PC. Giro di social, bicchiere di vino, messaggi vocali e scritti di sostegno con le amiche e i cugini, ciondolo fino alla replica della zanzara che mi distrae e riesce a farmi addormentare, non prima di aver provato ovviamente la temperatura. Giorno 3. Dopo una notte di sonno travagliato mi sveglio prestissimo, provo la temperatura, rimango in pigiama, accendo il PC presto, prima del solito. Il lavoro non manca, fortunatamente, progetti in corso da prima e brevi testi nuovi. Grazie al microonde mi faccio una polentina veloce per pranzo, ma non lavo i piatti. In questi giorni avrei tempo di leggere, io che sono lettrice da un libro a settimana, ma non riesco a concentrarmi. Avrei tempo per fare almeno un'oretta di Pilates, ma non ho la forza di volontà. Sono privilegiata, lo so, ho un lavoro che mi permette di lavorare da casa tenendo occupata la mente in modo costruttivo e rassicurandomi sull'incolumità fisica. Non ho mutuo e ho qualche risparmio da parte, eppure ogni tanto piango. Oppressa dall'ansia, quel peso sullo stomaco che taglia il fiato e sale fino agli occhi quando sono sola, del pensiero dei miei genitori, distanti quanto basta da non averli sotto controllo, e che è mia mamma che domenica mi ha detto che se si ammala non vuole essere portata in ospedale. Finite le lacrime, mi alzo, mi faccio un tè. Cerco di aggiungere una spesa voluttuaria all'elenco di cose da fare quando tutto sarà finito, prima di ricominciare con la mia traduzione. I found your diary underneath the tree. took me by surprise. You'd never read them in her eyes. They said that she had found the love she'd waited for. Wouldn't you know it? She wouldn't show. Then she confronted with the writing there, simply pretended not to care. I passed it off as just in keeping with her total disconcerting air. And though she tried to hide the love that she denied, you know it, she wouldn't show it. And as I go through my life, I will give to her my wife all the sweet things I can find. Ringrazio molto Francesca per la sua storia, per il suo diario da questa quarantena. L'umore effettivamente è altalenante, lo è un po' per tutti. Quelli che possono stare a casa e possono lavorare da casa sono chiaramente più fortunati di quelli che invece devono uscire, anche perché lavorare tiene chiaramente occupati e fa passare il tempo. Continuate a mandarci i vostri diari di quarantena se avete voglia di condividere le particolarità di queste nuove giornate. Linee d'ombra @radio24.it. State su, noi ora continuiamo a raccontare, continuiamo la nostra storia seriale, la storia di Anna Maria, che è la storia seriale che chiude di fatto la serialità legata ai Vizi Capitali. Vi abbiamo raccontato tutti i Vizi Capitali attraverso delle macro storie che Mauro Pescio ha raccolto, e ora stiamo chiudendo con una storia di gola, e la gola c'entra perché c'entra il cibo, c'entrano la gola, il cibo e l'idea di essere perfetti. Un giorno mi alzo, vado in bagno, mi guardo allo specchio e davanti allo specchio vedo riflessa l'immagine delle mie macerie. E io continuavo a tornare a casa la sera e davanti a me avevo l'immagine di tutto quello che vedevo prima. Cioè io non vedevo i muri perfetti, il bagno perfetto, il pavimento perfetto. Io vedevo tutto il delirio che c'era stato prima nei 3 mesi di lavoro. Io vedevo proprio queste macerie e non riuscivo a togliermi dalla mente queste macerie. Il mio pensiero è stato: adesso questa casa è perfetta, ma prima era distrutta. Ci è voluto un gran lavoro per essere perfetta. Tu, mi dicevo, non hai fatto nulla. Hai solo cercato di essere perfetta. Hai solo sopito tutto questo dolore tremendo che hai dentro. E quindi la domanda è: chi sei veramente? Ti guardi allo specchio? Davvero, ma è una cosa pazzesca. Tu ti guardi allo specchio ed è come se tu improvvisamente vedessi un estraneo. Cioè non ti riconosci. Da lì la domanda è stata: perfetto. Quindi vuol dire che tutte le scelte che hai fatto le hai fatte su un'infrastruttura che non esiste, su un qualcosa che è costruito sulla sabbia. Tutto quello che sei non esiste. E lì la domanda è: chi sei veramente? Ma mi dico da subito che è troppo faticoso cercare delle risposte a questa domanda. Scelgo un'altra strada per arrivare ad una soluzione soddisfacente. Memore del fatto che l'approccio scientifico al togliersi la vita non aveva funzionato a 18 anni, penso ad un altro metodo, molto più lento, ma decisamente efficace, che è smettere di nutrirsi. 20 anni dopo, che è pazzesco, se ci pensi, ma poi, cioè io non ho elaborato nessuno di questi due lutti, nessuno, soprattutto il primo. Però lui continua ad esistere e lavora, continua a lavorare, poi tu puoi crearti tutte le cose che vuoi, ma poi alla fine lui salta fuori nei momenti più inaspettati. In questo caso è stata probabilmente proprio questa ristrutturazione che mi ha dato questa cosa. Io poi non sono mai stata floridissima, sono sempre stata magra. Pochi giorni dopo il parto io rientravo nelle mie taglie normali, dunque non è stato difficile crearmi una strategia. Se a 18 anni ero riuscita a pianificare la mia fine nascondendo le pasticche un giorno dopo l'altro per mesi, a 37 anni ero certa di possedere ancora più capacità per raggiungere il mio obiettivo. Ti rendi conto che ce n'è un altro che è molto più lento, ma è decisamente efficace, che è non nutrirsi. ti fai una strategia quasi a lungo termine, quindi significa cominciare a mangiare sempre meno, sempre meno, sempre meno. Grazie davvero ad Anna Maria per la storia anche cruda che ci sta raccontando. La ringraziamo per come la racconta, per il tono che ha, per le parole che usa. Chiaramente se ce la racconta è perché ne è uscita da quella condizione e noi siamo felici di raccontarla, perché magari storie come queste possono essere utili a persone che stanno vivendo non la stessa situazione, ma magari una situazione simile. Voi continuate ad ascoltarci, continuate a fare le cose che vi fanno star meglio in questi giorni, proprio cercate di selezionare solo le cose che vi fanno, che ci fanno stare meglio, e facciamo quelle: mangiare le cose che ci piacciono, fare un po' di attività fisica in casa se possiamo, fare quattro chiacchiere con gli amici, leggere, raccontare, ascoltare i nostri podcast, ascoltare il nostro programma e mandarci le vostre storie, storie di quarantena se avete voglia, brevi diari di quarantena, oppure le vostre storie di vita, quelle che avete vissuto da quando eravate dei ragazzini fino ad oggi. Sceglietene una, raccontatecela, una storia che abbia nel mezzo una linea d'ombra, un confine che avete valicato. Noi torniamo domani, voi state su, che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!